Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 29 Kasım 1927 Toskana Campo Bisenzio doğumlu İtalyan aktör, şarkıcı Narciso Parigi'nin şarkıları konuk olacak. Özellikle 1940'lar ve 50'ler boyunca Toskana şarkı geleneğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan sanatçı, bilhassa radyo dinleyicileri arasında pek sevilen bir yorumcuydu. Hemen iki Floransa güzellemesi dinliyoruz Parigi'den. Önce Samba alla Fiorentina, arkasından da Mattina Fiorentina, şimdi radyonuzda. Samba, samba, samba, samba alla Fiorentina con lo stornando. Samba, samba, samba, a tutte le bambine voglio cantar. Schiudi la tua finestra, poricciolona, e scendi che ti porto alle cascine. Dalla Carraia andremo a San Frediano, tutta Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, samba, voglio ballare dalla felicità. La conga brasiliana, la rumba messicana, ormai son vecchi balli, ci voleva la novità. Oh, la samba di stagione somiglia un po' a Crescone, somiglia alla tarantella, ma che fa? Oh, e come è nato il sangue in Argentina, è nata questa samba alla Fiorentina. Samba, samba, samba, samba alla Fiorentina con lo stornello. Samba, samba, samba, samba, a tutte le bambine voglio cantar. Schiudi la tua finestra, poricciolona, e scendi che ti porto alle cascine. Dalla Carraia andremo a San Frediano, tutta Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, samba, voglio ballare dalla felicità. Samba, samba, voglio ballare dalla felicità. Oh samba, alla Fiorentina. È primavera. Svegliatevi bambine, alle ascine messe riaprire far rubator, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desseranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace, Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle ascine messe riaprire far ruba cuor. È primavera, che festa di colori, madonne fiori tentasse il genio d'un gran pittor. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, fiorin dipinto amava tanto, fiorin d'argento, Madonna amante, le labbra tinte, persin dall'avento si fa baciar. E primavera che festa di colori, Madonna e fiori, trionfo eterno di gioventù. Samba alla Fiorentina ve Mattina Fiorentina dinledik Narciso Parigi'den. 1944'te Lamberto Oriani'nin yönetiminde Radio Firenze ile sahneye çıkıyor ve kısa sürede Rai Orkestralı'yla bir radyo şarkıcısı olarak kendini kanıtlıyor. Özellikle 1945'ten 1965'e kadar çalıştığı ve 1948'de de Roma'ya taşındığında takip ettiği Francesco Ferrari'nin topluluğuyla olan işbirliği dikkat çekiciydi. Bu birlikteliğin önemli eserlerinden bir Sanremo parçası dinleyeceğiz şimdi. Incantatella, arkasından da yine Ferrari topluluğuyla birlikte icra ettikleri Serenatissima ile Narciso Parigi şimdi Açık Radyo'da. Incantatella, canta Narciso Parigi, accompagnato dall'orchestra Canzoni e Ritmi diretta da Francesco Ferrari. Da cento strade viene la canzone, nei suoni che la portano maggio, che langue nelle vene. Profuma l'aria intorno ad un balcone, e zitti dice state là. Incantatella che parli solo con qualche stella, e nel vederti che nel mirarti si fa più bella. Sei tanto dolce che non posso dire, sei tanto bella che mi fai soffrire, e cento volte tu mi fai morire. In una volta sola, incantatella, lo so che amando la luna tonda, ti fai più chiara, ti fai più sogno, ti fai più bionda. Ma per il bene che io voglio a te, i tuoi pensieri dalli solo a me, tutti i tuoi sogni dalli solo a me. Incantatella. Come son belli musici e cantori, tutti si rassomigliano quando sui loro volti scuri dagli occhi scende pieno di bagliori il pianto per la sete della quanto bella. Incantatella. Cento volte tu mi fai morire in una volta sola. Incantatella, che stando sola con la stella ti fai più chiara, ti fai più sogno, ti fai più bionda per lo splendore che t'avvolge in sé, per la bellezza che si gloria in te. Le donne tutte voglio amare. Incantatella, incantatella. La mia canzone. Breve, breve, breve, poi brevissima sarà la notte, amore. Ma la felicità sarà lunghissima. Piano, piano, piano e poi pianissimo ti stringerò sul cuore. Ma il nostro bacio allora sarà fortissimo. Va serenata, un angelo a svegliar. Dille che l'amore non la so scordar. Dolce, dolce, dolce, poi dolcissima sarà la mia passione. Forse la delusione sarà malissima, serenatissima, serenatissima. Incantatella. kantatella ve serenettissimo dinledik Narciso Parigi'den. Repertuarı başlangıçta tipik stonelliler ya da buna benzer yapıya sahip parçalar üzerine kurulmuşken zamanla daha klasik bir repertuara doğru devam ediyor. 1955'te az evvel dinlediğimiz ve Claudio Villa ile birlikte San Remo'ya katıldığı In Cantatella, arkasından Natalina Otto ile ve Radio Boys ile birlikte Ci qui ci cantava un usignol adlı şarkıyla yine San Remo'ya katılıyor. Şimdi Radio Boys'la icra ettikleri Ci qui ci cantava un usignol, arkasından da 1947 yılından bir kayıtla Luna Nuova radyonuzda. Quando baciavo te, bambina mia, quanta felicità e che poesia. Ci, ci, ci, l'usignol cantavano, ci, ci, ci, la sua canzone al nostro amor. Ed or che sto lontano a far fortuna, sospiro quando in cielo appar la luna. Ci, ci, ci, un usignol mi sento in cuore. Ci, ci, ci, la sua canzone cantare ancora. E va, e va. Ci, ci, ci, il mio pensiero lontano va. Mi palpitava il cuore varcando il mare, partivo già sognando di tornare. Udio a me volò, ci ci ci sembrava dir non te verrò. E quando più matta la nostra magia della tua bocca e della terra mia, ci ci ci udio torna a cantare, ci ci ci le pene mie per consolare. E va, va, ci, ci, ci, di canto mio lontano va, perché, perché, ci, ci, ci, ti posso dire che penso a te. Thank you. sono sospirata, tu sei ritornata la serenata su questo cuore. Luna nuova, luna tanto amata, la mia serenata voglio cantare al mio primo amore. Senza te non aveva la notte più incante poesia, senza te non cantava più il cuore che moriva di malinconia. Luna nuova, luna sospirata, tu m'hai riportata la serenata che sul mio cuore. Stasera, luna nuova, riporterà. Ci cantava un usignol ve Luna Nuova'yı dinledik Narciso Parigi'den. 1957'de Canzonissima programının öncüsü olan yılbaşı piyangosuyla bağlantılı bir televizyon programı olan Voci e Volti della Fortuna'nın sunucularından biri oluyor. 1960 yılında da Luciano Rondinella ile birlikte Rondini Fiorentina adlı şarkıyla Uluslararası Floransa Festivali'ni kazanıyor. 1962'de Giorgio Consonelli ile birlikte Vita adlı şarkıyla yeniden San Remo sahnesine geri dönüyor. Şimdi bu iki parçaya kulak veriyoruz. Lontano che amarezza, senza vedere più la mia città, i luoghi della propria fanciullezza, abbandonati tanto tempo fa. Per il calen di maggio, invio il mio messaggio, sulle ali delle rondini che partono di qua. Rondini fiorentine, salutateli per me, i colli e le cascine, il più bello scenario che c'è. Rondini fiorentine, ricordate per favore a tutte le bambine che a Firenze ho lasciato il mio cuore. Primavera canta col calen di maggio sui lungarni, l'aria si profuma con i fiori dei balconi adorni. Fiorentina vita mia, non potrei amarti più, se Firenze è la poesia, la sua musica sei tu. Calen di maggio sui lungarni, l'aria si profuma con i fiori dei balconi adorni. Fiorentina vita mia, non potrei amar di più, se Firenze è la poesia, la sua musica sei tu. Rondini fiorentine, salutatemi, la mia dinledik Narciso Parigi'den. Fiorella Allegrini ile evleniyor Parigi ve 1957'de Daniela'nın, 58'de Stefano'nun, 65'te de Andrea'nın babası oluyor. 1963'te Napoli Festivali'ne Nunzia Gallo ile birlikte Anna Maria adlı şarkıyla katılarak üçüncülük elde ediyorlar. 1950'lerde ve 60'ların başında Sergio Corbucci ile Terra Straniera, Roberto Bianchi Montenegro'nun da Gagliardi e Pupe gibi filmlerinde rol alarak artık aktörlük kariyerine de başlamış oluyor. Biz şimdi önce Anna Maria'yı dinleyeceğiz. Sonra da aynı festivalde Mario Abate ile birlikte seslendirdiği Estessa Maria'ya kulak veriyoruz. L'amore stagione cavier non te ne fossi l'amore, si l'amore passione col cuore in catena, fossi l'amore. Ah, per me, carezio sole, ma

se sperette pomare c'è per te. Anna Maria ve A Stessa Maria dinledik Narciso Parigi'den. Özellikle Ferrari Orkestrası ile birlikte şarkı söylediği dönemde caz kökenli ritmik şarkılara da yatkınlığı olduğunu ve bu jarnda da usta olduğunu göstermesine rağmen klasik İtalyan şarkısına sadık kalmıştır hep Parigi. Diğer meslektaşları tırnak içinde bu yeni modaların etkisiyle tarzlarını değiştirirken o asla bu seçimini değiştirmemiş. İtalya'da melodiye olan sadakatinin pek de takdir edilmediği zamanlarda bile o şansını ülke sınırları dışında yine bildiği şarkıları söyleyerek aramış. Hatta bu niyeti sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de sahneye çıkmış. Şimdi Narciso Parigi'den La Ragazza di Monticelli, arkasından da Porto un bacione a Firenze'yi dinliyoruz. Le ragazze di Monticelli le sono belle dai piedi ai capelli, forse è colpa della luna, se in amore l'hanno poca fortuna, le se ne vanno a quattro con la scusa del fidanzato alla cerca dei fringuelli. Le ragazze di Monticelli giunti di freddi, con il tavolo ti camminano a piedi, e la sera per la zona le ti fanno la maratona, sempre stanche così tu le vedi. Le ragazze laggiunti di freddi, mentre quelle di San Jacopino le vanno in giro con il motorino. Le ragazze Porta al Prato hanno tutte il vestito attillato, sono fragili e piene di vezzi, se tu le tocchi le ti vanno a pezzi, son di fisico assai delicato. Le ragazze di Porta al Prato, mentre quelle del Ponte alle mosse le ti tiran perfino alla bosse. Le ragazze San Frediano, tu le senti chiacchierar da lontano, e se chiedi a lor l'amore, le fanno a palla con il cuore, le pigliano quel che gli capita in mano. Le ragazze di San Frediano, mentre quelle ti portano mala, le pigliano solo chi è pieno di grana. Le ragazze di Porta alla Croce hanno un modo di fare veloce, se una cosa tu vuoi urgente le te la danno pure per niente, con roncone fa tarda la foce. Le ragazze di Porta alla Croce, mentre quelle di San Giovanni te la fanno aspettare col vapore, quando la bella bimba l'arrivò, vedendomi mi fa: scusi signore, perdoni, le di fiore, sì lo so, lei torna a casa lieto e bello vero, ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che l'è la mia città e gli è tanto che un ci vuol. La porti un bacione a Firenze, quando la vedo io glielo renderò. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, e lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. Bella bambina, gli ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità sin da quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. E appena giunto a casa, e te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che l'è la tua città, ma anche l'è di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, giammai comai potrò scordarmi tu. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma stai sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze, e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, ma se non fosse, la può passar per vera sul perché. Sapessi l'uccicori e quanta tosse, da chi lontano dalla patria gli. Ed ogni fiorentino che è lontano, vedendoti partire, ti dirà piano. Senti, per piacere, che me lo porterebbe un bel bacione a Firenze? Vede, quella è la mia città e poi qua... Bacione a Firenze, perché quando lo vedo io me lo rendo 100, 200, 100, tutti i baci che c'è nel mondo, perché quella la nostra cittadina, graziosa assai carina. Voi lo sapete tutti che la c'ha tant'anni, eppure la un bel vecchia mai. Io porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai. Bravissimo, veramente straordinario. Grazie. Narciso Parigi, Le ragazze di Monticelli ve porta un bacino a Firenze e Radio Nostra. İngilizce öğrenmek istiyorsanız Frank Sinatra'nın plaklarını dinleyin. İtalyanca öğrenmek isterseniz Narciso Parigi'nin plaklarını dinleyin. Bu slogan sadece Amerika'da plakları tanıtmak için kullandıkları bir slogan değildi. Aynı zamanda Parigi'nin kariyerine de her zaman eşlik etmiş bir ifadeydi. Amerika turnesi sırasında Earl Sines, Jack Teagarden gibi önemli müzisyenler eşliğinde şarkı söyleme fırsatı buldu. Turnelerle Kanada, Rusya ve Japonya'da da sahne aldı. 5000'in üzerinde şarkı kaydetti. Dean Martin, Sinatra, Mina, Irma Carlon ve Nilla Pizzi gibi şarkıcılarla işbirlikleri yaptı. Şimdi Parigi'den bir klasik olan Manuela'ya kulak veriyoruz. Arkasından da Valser della Povera Gente radyonuzda. Han detto che è la più bella di Barcellona, l'han vista gettar lo scialle giù nell'arena. Ah, da quando l'ha messa in pena la catalana, la sua chitarra nel chiaro di luna. Manuela, Manuela. Se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela. Accogli i sospiri e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che io voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela. Trucchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, ah, ah, ah, quando la bella bimba arrivò, vedendomi mi fa scusi, signore, perdoni letti in fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto e bello vedo, un piccolo favore allor le chiedo. La mi porti un bacione a Firenze, la mia città, ed è tanto che un ci voglio, me lo porti un bacione a Firenze, quando la vedo io glielo renderò. Son figlia d'emigrante, per questo son distante e lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, quando la vedo glielo renderò. Bella bambina, gli ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò, e per tranquillità sin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. E appena giunta a casa, e te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, nella tua città ed anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, giammai mai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma stai sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, ma se non fosse, la può passar per vera solo perché sapessi Luccioni e quanta tosse da chi lontano dalla patria gli è. Ed ogni fiorentino che è lontano vedendoti partire ti dirà piano. Bacione a Firenze, nella mia città, poi vede io, qui più ci si sta, la me lo porti un bacione a Firenze, non vedo l'ora di rivederla, la me lo porti. La nostra cittadina, ci crederete che lascia tant'anni eppure da un ben vecchia mai. Io porto i bacioni a Firenze di tutti. tutti i fiorentini che incontrai. Oh, Manuela ve Valzer della Povera Gente ile Narciso Parigi radyonuzdaydı. Bugün İtalya'da bilhassa radyo döneminde çok önem kazanan, çok iyi hatırlanan aktör ve müzisyen Narciso Parigi'nin şarkıları vardı Itabella'da. 29 Kasım 1917'de Parigi 90. doğum gününde müzikal çalışmalarından dolayı Floransa şehri yetkililerince Fiorina d'Oro altın çiçek ödülüyle taçlandırılıyor. 2 sene sonra da Floransa'da çok sevdiği Floransa'da hayata gözlerini yumuyor. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Narciso Parigi'den Parlami d'Amore Mario ile kapatıyoruz. Açık Radyo susturulamaz. Hoşçakalın. Sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani thank you.